Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari ascoltatori. Ebbene, mi corre l'obbligo, prima di iniziare questa trasmissione, di fare una premessa. Non voglio fare nessun allarmismo oggi sul pesce crudo parlando dell'anisakis, ma discutendo con molti ristoratori e amici e sentendo anche recentemente un paio di persone che sono state colpite appunto dall'anisakis, persone che conosco bene, e mi è venuto veramente di riproporre una trasmissione che parlasse di questo argomento. L'avevamo toccato, diciamo, in maniera marginale a marzo, però visto i casi che si ripetono e visto anche alcuni casi di cui andremo a parlare, che ci faremo raccontare, credo valga la pena di parlare di questo argomento, lasciando per una settimana il gusto del pesce, la stagionalità, come si cucina il pesce e dove si va a mangiare il pesce. Quindi credo sia molto importante l'anisakis. Ecco, questo io lo definito il male oscuro del pesce crudo. Voglio subito cominciare da un grande esperto di anisakis, dal professor Paolo Fazzi, che è dirigente medico del laboratorio di analisi dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, ma anche, udite, presidente del GISLA, un gruppo italiano per lo studio delle patologie da larve anisakidi, unico al mondo. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a lei. Vogliamo spiegare in maniera semplice cos'è l'anisakis? Allora, l'anisakis è un nematode, cioè un verme tondo che vive praticamente in ambiente marino. Più precisamente, gli ospiti definitivi sono i cetacei e i pinnipedi, quindi diciamo i mammiferi marini. Però per raggiungere in pratica lo stomaco di questi mammiferi marini utilizza i pesci che si comportano, i cefalopodi, che si comportano come ospiti paratenici, cioè ospiti di trasporto, una specie di, diciamo così, di tram, no? Per raggiungere in pratica lo stomaco di questi mammiferi, dove si maturano in vermi adulti, lì avviene la copula e quindi la liberazione di uova, e quindi si chiude il ciclo. Ecco, l'uomo si può contagiare mangiando il pesce crudo, ecco, o poco cotto. Bene, ecco, poco cotto, ora ci torneremo. Sì. Voglio ricordare numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, perché sono molti che vogliono sapere di questo. Abbiamo già Rachele da Gorizia, una radioascoltatrice. Buongiorno Rachele. Buongiorno Davide Paolini, complimenti, l'ascolto sempre. Io consumo molto pesce e faccio lo stracotto perché ho paura di questo benedetto anisakis. Se gentilmente mi può dire a quanti gradi eventualmente si neutralizza, oppure se sei in tutti i pesci, se è qualche pesce specifico? Sì, nel pesce azzurro mettiamo. Beh, diciamo che il professore ha già dato così delle indicazioni, però perché mi hanno fatto spegnere la radio. Voglio aggiungere anch'io già una domanda di un radioascoltatore che scrive se anche nei molluschi. Professore, pesce azzurro o solo pesce azzurro? Allora, molluschi no. Pesce azzurro in prevalenza, ma in realtà vi sono varie specie di anisakis nel Mediterraneo e ogni specie ha il proprio ospite paratenico, ospite di trasporto. E diciamo che quindi un po' tutti i pesci hanno l'anisakis, però l'anisakis, che poi l'anisakis pegreffi, che è quello che dà problemi all'uomo, solitamente lo si ritrova nel pesce azzurro e in alcune altre specie di pesce, tipo che ne so, il nasello, il merluzzo, ecco. I molluschi però non sono infestati. Senta, le ostriche sono infestate? Assolutamente no. Le ostriche si possono mangiare crude. L'unico problema è che possono dare altri tipi di problemi, tipo un'epatite virale A ad esempio, ecco, ma non problematiche legate all'anisakiasi. Quindi ci sono altri batteri, insomma. Senta, professore, il discorso di abbatterlo, oppure lei ha detto scottarlo, non è sufficiente scottarlo, se ho ben capito? Allora, in pratica l'anisakis, la larva L3 di anisakis, viene uccisa a 60 gradi per pochi minuti. Secondo alcuni studiosi basterebbe un minuto a 60 gradi per ammazzarlo, quindi praticamente una cottura, diciamo, fatta bene di materiale ittico riesce ad eliminare il problema. L'unico problema semmai può essere la pezzatura, cioè se si va a cucinare un pezzo di pesce piuttosto spesso. Ora i 60 gradi non raggiungono il cuore, diciamo, del pezzo di pesce, il cuore del prodotto, e quindi in pratica l'anisakis può rimanere vivo e vitale. Bene, la ringrazio professore. Il gastronauta. Parlare di anisakis, questo verme che abbiamo sentito che si inserisce nelle viscere del pesce crudo. Di solito abbiamo sentito quali sono le specie, diciamo, che più sono contaminate da questo anisakis. Quindi io ho tantissime, veramente molte SMS che chiedono casi particolari. Vedremo di rispondere a tutti. Sentiamo intanto Antonio dalla provincia di Monza, Brianza. Buongiorno Antonio. Sì, buongiorno Davide. Volevo segnalare solo una cosa. Io sento molte trasmissioni in televisione, anche in radio, che parlano di pesce fresco azzurro, però questa gente non si ricorda mai di dire che prima di essere consumato il pesce, se crudo, va congelato per almeno 24 ore. Ecco, io ho notato molte trasmissioni dove non dicono queste cose perché l'anisakis è veramente un pericolo mortale. Bene, mi sembra di capire che lei è un ristoratore, Antonio, ma poi faremo la differenza tra congelazione, abbattitura, vedremo diversi casi. Ma abbiamo con noi un caso vivente, devo dire, di un ristoratore che è stato colpito dall'anisakis e ora ce lo facciamo raccontare. A un grande ristoratore, tra l'altro, Mauro Uliassi di Senigallia. Buongiorno Mauro. Ciao Davide, come stai? Bene, bene. Tu stai bene ora? Sì, no, io sono stato recuperato al 100% da questa disavventura che ci ho avuto alcuni anni fa, e nonostante che io sapessi perfettamente, perché ho insegnato un sacco di volte anche a scuola e nei vari corsi il pericolo dell'anisakis del pesce crudo, però io sono rimasto fottuto veramente come uno sciocco da questo piccolo e quasi invisibile vermicello, mangiando semplicemente arrivato del tonno freschissimo nel mio ristorante, proprio quello di si chiama il tonno da corsa, no? Quello che si pesca tra, certo, aprile e giugno. L'ho scottato velocemente su una piastra senza pensare che all'interno la temperatura non poteva essere sopra i 5 gradi, e così mi sono beccato l'anisakis. Non me ne sono accorto subito. Ecco, questo mi è importante. Tanto che il giorno dopo avevo una forte allergia, una cutanea, cioè mi comparivano delle chiazze, ma poteva essere qualsiasi altra cosa. Se non che è appena arrivato l'inverno, quindi dopo qualche mese ho avuto una forte rinite, quindi un grande raffreddore, che mi ha provocato anche un principio di asma. Così, avendo un sacco di medici amici, e una sera proprio c'era un tavolo di allergologi di fama internazionale, dopo che loro avevano mangiato, ho buttato lì questa cosa, di questo problema che avevo, e il dottor Bonifazi, che poi è diventato un mio carissimo amico, mi ha invitato nel suo studio, mi ha fatto una serie di diagnosi ed è venuto fuori che io ero allergico all'anisakis. E da lì sono stato curato all'inizio con dello Zentel, dello Zyrtec, che è un antistaminico per lenire questa cosa, e poi un'altra mia amica brasiliana mi ha curato con lo Zentel per 2 mesi, e sono stato fortunato che questo batterio è sparito. Guarda, poi 3-4 mesi. Poi sono stato dietro quasi un anno. Certo, poi sentiremo il professor Bonifazi, guarda, lo sentiremo proprio in trasmissione. Voglio chiederti, ecco, che consigli dai tu, diciamo, ai tuoi colleghi ristoratori? Perché ti voglio raccontare una cosa che credo sia importante. Un ristorante dove vado spesso, io non avevo mai chiesto se aveva l'abbattitore, se congelava il pesce, dove ho mangiato spesso alici fresche, gli ho chiesto, dico, dopo tanti anni che andavo, ma le hai abbattute? Dice no, ma perché, cosa serve l'abbattitore? E mi ha spiegato che lui non aveva bisogno, perché andava la mattina a prendere il pesce fresco dalle barche dei pescatori amici, e quindi non aveva bisogno. Questi sono i pericoli che corrono moltissimi ristoratori, non so se sei d'accordo. Assolutamente sì, ed è un falso romanticismo quello di dire di servire il pesce crudo fresco, perché proprio l'HACCP, che è una norma dell'HACCP che in tutti quanti i ristoranti, come decalogo di lavoro corretto in un ristorante, dice che assolutamente il pesce crudo, e questo è internazionale, per poter essere consumato deve essere abbattuto almeno per 48 ore a 20 gradi sotto zero. Sì, è sì, chiaro sì. Che poi ci vogliono delle macchine per fare questo, perché più la macchina è potente e certo, più c'è la possibilità di salvaguardare il prodotto, e il prodotto che deve essere abbattuto è chiaro che deve essere fresco, deve essere un animale che è stato pescato entro le 12-24 ore. Bene. E poi non tutti quanti i pesci possono essere abbattuti, perché ci sono pesci che hanno un basso quantitativo di acqua, per cui reagiscono in un modo con l'abbattimento, e pesci con un elevato quantitativo di acqua, come gli alici, che reagiscono in un altro modo. Grazie Mauro della tua testimonianza, grazie, sei stato molto gentile. A presto. Sentiamo Inga da Milano, buongiorno, una radioascoltatrice. Buongiorno, volevo chiedere, siccome io consumo tanto salmone, lo adoro in tutti i modi, se anche salmone crudo è colpito di questo verme? Io penso di sì, poi sentiremo magari qualche altro esperto, però mi sembra che anche il salmone debba essere abbattuto. Io credo che tutti i pesci debbano essere abbattuti, appunto, come ha spiegato ora Mauro Uliassi. Comunque ripeto, numero verde 800 24 00 24 e sms 34 9238 6666. Sentiamo, ora abbiamo con noi Flavio Cerioni, presidente del consorzio Scirocco 36, è un consorzio di filiera che coordina pescatori, mercati ittici, dettaglianti e ristoratori. E io volevo chiedere, Cerioni, mi sembra che sul discorso dell'abbattimento non sia molto molto d'accordo, vero Cerioni? Buongiorno Davide, buongiorno dagli ascoltatori. Ma diciamo che conoscendo il problema si potrebbe un attimino, come dire, dare anche del pesce fresco non abbattuto. Sono d'accordo che nella ristorazione bisogna abbatterlo per stare più tranquilli, perché si dà da mangiare a tanta gente, per cui è giusto che sia questo, anche perché la legge ce lo impone. Però chiaramente, io dico sempre, c'è una saggezza popolare dalle nostre parti. Io sono marchigiano e spesso e volentieri sono spesso nei porti, e i marinai, i pescatori mi dicono, sento questi vecchi saggi popolari che dice: il pesce deve essere crudo, la carne cotta. Se ci spostiamo appena appena di qualche chilometro all'entroterra è esattamente il contrario, molti dicono ci vuole il pesce cotto e la carne cruda. Questo secondo me sta a indicare che se il pesce è veramente fresco, ma bisogna adesso averne la certezza e la capacità per poi poter dire che è fresco, di pochissime ore tirato fuori dall'acqua, una volta curato, cioè i nostri marinai dicono che il pesce curato vuol dire eviscerato immediatamente, non troviamo sicuramente l'anisakis. Ripeto, i nostri pescatori mangiano il pesce crudo, però lo eviscerano, tant'è che questo parassita vive nell'intestino dei pesci, mai nelle carni, trasmigra nelle carni dopo diverso tempo che questo è uscito dall'acqua. Bene, chiederemo appunto se il tempo appunto di pescato è virato in poche ore e possa salvare questo, magari lo chiederemo sicuramente a uno dei nostri altri esperti. Grazie Cerioni, sentiamo Pino da Livorno, un radioascoltatore, buongiorno Pino. Buongiorno. Prego. Molto semplicemente, anzitutto ho sentito un po' una inesattezza, che un dittatore parlava di allergia, ma certo di un'infezione, non di un'allergia. In ogni modo, andiamo avanti, sul ruolo su questo. La cosa è che nei mercati spesso vengono offerte in vendita le alici freschissime, eviscerate, proprio così, vendute senza nessuna previa congelazione, ecco. E sembrerebbe, insomma, a quello che sento dire, che il pericolo sarebbe evitato perché sarebbero state eviscerate, ma di questo non abbiamo nessuna prova, garanzia. Una cosa però è più importante che volevo capire, si sente parlare sempre di trattamento a 20 gradi sotto zero. Ora, mi sembra anche di averlo letto da qualche parte, i nostri frigoriferi vanno al congelatori domestici, congelano, ma a 18 gradi sotto zero. Volevo capire, sapere, se i 2 gradi di differenza che potrebbero essere risolti, perché quando il pesce è ghiacciato, certe volte quando c'è la congelazione col ghiaccio, al di sotto di quello lì non si va. Certo, anche se, credo che non siano sufficienti i 18 gradi, credo che per legge ci vogliono 20 gradi e si parla di abbattitore. Comunque questo lo specificheremo, perché tutte le disposizioni che sono state fatte parlano di meno 20, quindi io non so se tutti i frigoriferi arrivano a meno 18, però si parla ovunque di meno 20, quindi credo che 18 gradi non siano sufficienti, oppure così possono lasciare qualche rischio. Questo lo vedremo, perché 2 gradi non sono molti, però potrebbero essere importanti. Io credo che una volta che è stato messo 20 forse una ragione ci sia. Sentiamo Alessandra da Reggio Emilia. Buongiorno, io avevo una domanda. Io sono una gran mangiatrice di pesce crudo e carne cruda. E ho aperto la trasmissione stamattina, ho aperto la radio e mi trovo questa notizia che mi lascia molto così di stucco, perché non sapevo niente. Allora, intanto io non conosco i sintomi, ho sentito il signore di prima che diceva appunto che c'è stata un'allergia. Non c'è stato, cioè anche quello lo specificheremo ora col professore. Cioè il problema. Vorrei sapere quali sono i sintomi, primo, e secondo, siccome io mangio spesso pesce crudo, ho abitato in Oriente qualche anno. Se quella semplice, come dire, salsina wasabi, quella verde che si mangia al giapponese, che di solito serve un po' per disinfettare perché è piccante, può essere eventualmente utile per questa cosa, insomma. Io credo che non ci sia nessuna marinatura se non le alici sotto sale per lungo tempo, anche con limone o d'altro. Secondo me marinature di questo genere servono a ben poco. Comunque poi avrò magari la consulenza, ma mi ero già documentato su questo. Penso non ci sia altra via che l'abbattimento oppure per le alici sotto sale. Bene, grazie Alessandra. Ora abbiamo con noi un biologo marino che ogni tanto chiamiamo, il professor Piccinetti, Corrado Piccinetti. Buongiorno Piccinetti. Buongiorno, come andiamo? Tutto bene? Beh sì, abbastanza bene. Senta Piccinetti, abbiamo sentito del tempo che intercorre tra il pesce pescato, diciamo le ore che intercorrono in cui si possa formare l'anisaki. Se lei cosa ne pensa? Sono parecchie le ore, sono poche dal momento in cui viene pescato che si possa formare l'anisaki, oppure ci vuole molto tempo? Io purtroppo non ho sentito, perché mi trovo in un posto dove è passato un elicottero a bassa quota sopra facendo un chiasso dell'accidente. Allora gliela ripeto la domanda. Esatto. Il pesce appena pescato, diciamo tirato su dalla barca, dal momento in cui si è tirato su dalla barca al momento in cui si possa formare l'anisaki, quanto tempo può passare secondo lei? Parecchie ore sicuramente, perché a un certo momento l'anisaki, normalmente quello che vive nell'ambito del pesce non è l'adulto, è una fase larvale, perché l'anisaki, questo animale che ha sempre vissuto ed è sempre esistito, ha un ciclo biologico un poco complesso, perché è un parassita che vive normalmente nell'apparato digerente dei mammiferi marini, quindi delfini ed altro, foche così sia, e così che non ce ne sono tante, e da lì quando emette delle larve, le quali devono essere mangiate da un piccolo gamberetto, da questo gamberetto che le mangia viene mangiato a sua volta da un pesce, qui c'è una trasformazione non ancora in adulto ma in una larva, e dal pesce poi quando viene mangiato da un mammifero evidentemente ritorna e rifà l'adulto che poi si può riprodurre. Questo ciclo è abbastanza complesso, però direi in questa fase la larva si trova nell'apparato digerente del pesce, quindi dovrebbe migrare dall'apparato digerente nel muscolo, perché noi mangiamo solo il muscolo, in genere l'intestino dei pesci viene buttato via quando si pulisce il pesce. Certo, e volevo chiederle anche un altro aspetto secondo me importante. Lei ha detto giustamente, cioè ora se ne parla, ma perché un tempo non se ne parlava dell'anisakis? Per due motivi fondamentali. Il primo, non era così diffusa l'abitudine di mangiare pesce crudo come attualmente, e a un certo punto il secondo tipo di motivo era che forse questo parassita era meno presente. Lei sa che da un certo numero di anni noi proteggiamo con grande forza quello che sono tutti i mammiferi marini, quindi sono aumentati. Essendo aumentati gli ospiti che normalmente ci sono in mare, è evidente che sono aumentate anche quelle che le larve e la loro infestazione sul pesce che vive in mare. Quindi c'è un aumento della frequenza da un lato e dall'altro un aumento dell'abitudine di mangiare il pesce crudo, che prima non c'era, e con la cottura evidentemente tutto il pesce. Certo, i problemi erano in Giappone, perché ogni anno si contavano diversi morti in Giappone dall'anisakis anche un tempo, quindi sicuramente l'abitudine nata là poi è stata trasferita ovviamente, quindi come giustamente dice lei, diciamo questa abitudine nuova che è arrivata in tutto il mondo ha portato alla luce questo problema. il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare del male oscuro del pesce crudo, l'anisakis. Io ho in linea il professor Bonifazi, che come abbiamo sentito ha curato il nostro Mauro Ugliassi. Però prego professore di attendere un secondo, perché voglio sentire Carlo dalla provincia di Massa Carrara, perché penso potrà raccontare qualcosa di interessante. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Mi dica. Niente, io purtroppo sono stato affetto da questa anisakis. Ho avuto forti dolori addominali, sono stato ricoverato in ospedale una settimana senza che sapessero la causa. Dopodiché un bravo medico, facendo una scopia, è riuscito a individuarlo, l'ha visto e l'ha catturato con le pinze. Quindi... sì. Niente, dopodiché mi sono informato appunto via Pescara, perché sono bravissimi. Certo, certo. Mentre qui in Versilia nessuno conosce questo animale qua. Bene. Ne parlano in maniera vaga, ecco, però non approfondisco. Grazie Carlo, grazie Carlo della sua esperienza, molto interessante. Professor Bonifazi, buongiorno. Pronto? Sì, lo sento. Buongiorno. Professore, buongiorno. E prima Mauro Ugliassi ha raccontato la sua avventura con l'anisakis e ha parlato di allergia, ma l'anisakis non è un'allergia. In effetti, diciamo, fino a 20 anni fa si pensava soltanto che fosse causa di infestazione, cioè una parassitosi cui l'uomo era ospite accidentale e le sintomi gastrointestinali riferiti dal signore che ha chiamato prima erano, diciamo, il banco di prova per la medicina. Solo che 20 anni fa un giapponese, Kazuya, invece ha messo per primo in luce, descrivendo un caso di shock anafilattico dopo ingestione di pesce, che non era il tipo di pesce che era stato ingerito, che come è noto può dare allergia di per sé, ma era proprio il parassita, la larva del parassita all'interno, e quindi le caratteristiche allergeniche e antigeniche sono venute fuori. E poi su scala mondiale, soprattutto in Spagna, che consumano più di 90 grammi di pesce al giorno, in Giappone e Scandinavia, si sono incominciati a segnalare i casi, diciamo, più importanti. Poi, se avrò possibilità, direi che anche noi, diciamo, per una volta abbiamo superato il boom con la Spagna e abbiamo prodotto un dato epidemiologico molto rilevante su scala nazionale, che spero di poter illustrare. Prego, prego, io lascio parlare. Ah, bene, allora, per, diciamo, il problema dell'allergia è un problema che è tuttora oggetto appunto di studi, e l'Italia si è messa, diciamo, in linea con questo studio fatto l'anno scorso, pubblicato su Allergy, che è la rivista più importante della Società Europea di Allergologia e Immunologia Clinica. Abbiamo, diciamo, individuato 34 centri che sono, diciamo, in qualche modo responsabili di tutte quelle che sono le sintomatologie più classiche dell'allergia, ubicati sia sulla costa adriatica, sia quella tirrenica, sia su città piccole che grandi, sia all'interno, diciamo, dei monti, quindi a distanza di 100 km dal mare, e abbiamo individuato su pazienti che avevano delle caratteristiche cliniche compatibili con allergia, cioè urticaria acuta o generalizzata con gonfiore della pelle, sintomi gastrointestinali importanti da 2 minuti a 2 ore dall'ingestione di cibo, abbiamo individuato 10.570 pazienti in cui 457 erano acuti positivi, quindi per la prima volta ci abbiamo su una popolazione studiata il 4,5% della popolazione che ha una sensibilizzazione, che non vuol dire, questo è un problema molto importante ancora, che sono sintomatici e sono quindi in qualche modo allergici, ma ne abbiamo individuati 66 veri allergici all'anisakis, quindi lo 0,6% del 14% di quelli che hanno acuti positivi, il che ci consente già di dare una prima stima epidemiologica su scala nazionale per le reazioni più gravi, stimando quindi un 5-6 mila pazienti con problemi allergici seri da anisakis, tenendo presente che i problemi dell'allergia alimentare nell'adulto colpisce circa il 2% della popolazione. La cosa degli alimenti più incriminati sono stati le alici marinate, in più della metà dei casi, seguite dai carpacci crudi di tonno, spada, sushi, tonno in scatola in olio d'oliva in 2 casi, in un caso anche la mousse di tonno. Ma la cosa più importante è stata che ci sono state delle differenze regionali. L'Abruzzo, per dire, visto che si cita il centro di Pescara, ma noi abbiamo indagato anche Pescara, come Ancona, sull'Adriatico abbiamo un 20% di sensibilizzazioni, che non vuol dire allergia, ma un 2%, quindi non lo 0,5%, di veri allergici alla lice marinale, che come è noto sono ampiamente utilizzate. E lo stesso cifro ce l'abbiamo a Roma e Salerno. Le percentuali sono molto più basse in zona montana, e quello che è, diciamo, abbastanza suggestivo e indicativo è che l'abbiamo basse le incidenze sia di sensibilizzazione, cioè di contatto con gli allergeni delle larve, ma anche di vera allergia a Reggio Calabria, perché c'è un maggior consumo lì di alici fritte invece che marinate, quindi c'è un concetto proprio di denaturazione dell'allergene delle larve, che sono ovviamente in qualche modo termoresistenti, e quindi questo è un dato, diciamo. Senta, professore, che è la prima volta viene pubblicato in Italia. Una domanda banale: quindi se uno non è allergico però può contrarre comunque l'anisakis? Questa è una possibilità che abbiamo dimostrato proprio in questo studio, cioè questa malattia, la malattia allergica, colpisce in modo prevalente non i bambini ma adulti, addirittura direi di mezza età, che non hanno predisposizione all'allergia, e quindi è proprio il contatto e gli intervalli di tempo tra i contatti, il numero di somministrazione di pasti con pesce crudo, come hanno dimostrato anche gli spagnoli, se si supera 3 pasti di pesce crudo, per dire, al mese, si riesce, diciamo, ad avere questa opportunità di diventare veri allergici, cominciando attraverso la sensibilizzazione. Però, ripeto, è un problema complesso, non vorrei creare allarmismi. Sensibilizzazione, cioè dimostrazione di cuti positività, cioè di presenza di anticorpi, non vuol dire malattia, come non lo vuol dire essere, per dire, positivi all'Helicobacter, perché allora ci sarebbe, diciamo, una sintomatologia anche lì gastrointestinale molto più diffusa. Però è chiaro che quello è un segnale di contatto e quindi è un segnale di rischio, solo che sui fattori di rischio c'è ancora da indagare parecchio, perché per esempio noi non sappiamo tra le costituenti allergenici della larva dell'anisakis, che adesso si sta indagando con l'ingegneria genetica, si sta tipizzando, caratterizzando l'antigene 1, 4, 5, 10, quali di questi segneranno la storia naturale del paziente che sviluppa anticorpi verso questi costituenti, quelli quindi che non diventeranno mai allergici, o quelli che lo diventeranno e poi non perderanno l'allergia. Quindi c'è parecchio da fare anche in termini, eventualmente, se si sviluppa questo discorso di vaccini. Grazie professor Bonifazi, la ringrazio molto di tutto quello che ci ha raccontato. Ora passiamo a molti radioascoltatori, sentiamo Maria Rosa da Milano. Buongiorno Maria Rosa. Buongiorno, io volevo sapere una cosa, visto che tutti gli anni per Natale faccio il salmone alla norvegese, dove la coda del pesce viene lasciata marinare per 4-5 giorni con sale, zucchero, pepe rosa, pepe nero, aneto, sottopeso, rigirandola. Questo bisogna comunque far congelare prima il pesce, o si può fare pesce crudo? Io ho sempre fatto pesce fresco. Bene, io credo che bisogna batterlo. Comunque ora chiederemo se anche il caso della marinatura in questo modo può costituire. Io credo che tutte le marinature, escluso sottosale, siano quelle da evitare. Comunque sentiamo Graziella da Pordenone. Buongiorno Graziella. Buongiorno, volevo fare solo un piccolo contributo. Io lavoro in una pescheria e i miei titolari, quando spiegano questo trattamento del pesce crudo, consigliano l'abbattimento, come avete detto voi, e se uno lo vuole congelare in casa ci vogliono almeno 90 ore di tempo perché sia abbattuto nel congelatore di casa. Perché, perché arriva a 18 gradi, a meno 18, dicevo. Esatto, ci vuole il tempo, certo, molto più lungo, okay. Quindi volevo passare questa informazione, che a mia volta è stata utile, insomma. Bene, sentiamo Stefano dalla provincia di Parma. Buongiorno Stefano. Ascolti, io mi occupo di sicurezza alimentare, sono un ricercatore alla facoltà, sì, di veterinaria di Parma. Prego. E volevo, se possibile, dare il mio contributo, perché con l'anisakis, insomma, ci lavoriamo abbastanza. Allora, relativamente alla possibilità di infestazione tramite il consumo di salmone, sì, purtroppo salmoni sia selvatici dell'Atlantico del Pacifico, la stessa normativa prevede un trattamento termico, certo, vale a dire una congelazione ad almeno 20 gradi per almeno 24 ore. O una cottura. o una cottura naturalmente, ma siccome prima si, parlava del consumo di salmone, diciamo così, affumicato o fresco, allora questo è il trattamento a cui riferirsi. Secondo, l'ascoltatrice che cercava di ascrivere delle proprietà, diciamo, protettive al wasabi, mi corre l'obbligo di smentirla. L'ho smentita anch'io perché mi sembrava... Quindi il wasabi, ancorché buono, non conferisce alcuna protezione. Terzo, per la marinatura ci sono degli studi norvegesi che parlano della possibilità di intervenire inattivando il parassita, quindi qui parliamo sempre del discorso infestazione, fermo restando il discorso allergico che è stato chiarito prima dal professore, quindi quello permane comunque sia anche in seguito a marinatura, l'infestazione invece decresce, però è una marinatura protratta, almeno 30 giorni con raggiungimento di un pH diciamo basso, quindi pH inferiore a 4, quindi è una cosa abbastanza fuori dai normali canoni che abbiamo sentito riportare da alcune ascoltatrici. E in ultimo, i sintomi, ci sono due forme in realtà, c'è una forma a cui si riferiva un ascoltatore, credo, della zona di Massa Carrara, che è una forma intestinale, che però è lenta come excursus, vale a dire compare entro massimo 7 giorni dall'ingestione del parassita, con dolori addominali, ci può essere febbre, ci può essere diarrea, ci può essere sangue occulto nelle feci. Però per quanto riguarda quello che è la forma, c'è anche un'altra forma che è la forma gastrica, che decorre in maniera abbastanza acuta, cioè entro 4-6 ore dall'ingestione. Bene. E qui abbiamo dolori gastrici, nausea o vomito. Stefano, la devo interrompere, devo passare la linea alla regia. Comunque grazie perché ha dato un grosso contributo a chiarire molti dubbi. Grazie Stefano. Il gastronauta. Eccoci di nuovo nella parte finale appunto di questa trasmissione sul Anisakis. Abbiamo sentito molto spesso sentire la parola congelamento, surgelazione, abbiamo sentito appunto nel frigorifero di casa, abbiamo sentito la parola battitore, che è ancora è una parola poco conosciuta. Allora lo chiediamo a Katia Daros, che è responsabile della divisione Home Irinox, che produce battitori. Volevo chiederle, Daros, che differenza passa tra la surgelazione e l'abbattitore, l'abbattimento, quindi quando si parla di meno 20 gradi di abbattimento? Intanto buongiorno Davide e buongiorno radio telescoltatori. Allora, la differenza è nella temperatura, è un errore che si fa molto spesso, l'abbattimento è diverso dal surgelamento. Quando si abbatte in realtà si abbatte la temperatura per portarla a 3 gradi al cuore, quando invece si surgela la si porta a meno 18 al cuore del prodotto. Di solito lo si fa con un'aria all'interno della camera dell'abbattitore che arriva a meno 35, meno 40 gradi. Quindi la differenza nella temperatura, nei tempi e nel risultato finale. Ecco, il risultato finale, che differenza sul prodotto che si abbatte o si surgela? Cioè tocca quindi le fibre? Allora, innanzitutto molto spesso confondiamo il congelamento con il surgelamento. Ecco. Il congelamento è quello che si fa comunemente a casa, normalmente si mette il prodotto fresco all'interno del proprio freezer, se il freezer è buono arriva a meno 18, ma non sempre arriva a temperature così basse, e quindi l'acqua contenuta nell'alimento cambia dallo stato liquido allo stato solido, e questo è proprio il cambio dello stato del prodotto. Però facendolo in maniera lenta, perché ovviamente non c'è scambio termico, perché l'ambiente è statico, non c'è quindi la ventilazione, quello che si forma sono dei cristalli che sono molto grossi, si chiamano macrocristalli, e finché il prodotto è congelato non si vede alcuna differenza con il surgelato, però il problema sia quando poi lo si toglie dal freezer, perché essendo il macrocristallo molto grande ha avuto un'espansione all'interno della cellula, la cellula si rompe e quindi c'è la fuoriuscita dei liquidi, che vuol dire anche le sostanze nutritive, il colore, la consistenza, e quindi si dice che il prodotto è congelato e lo si può vedere, per questo che c'è una cattiva percezione del congelato. Invece il surgelato, la differenza è che i tempi sono molto più veloci, la legge italiana dice che il prodotto è surgelato se arriva a meno 18 in tutte le sue parti entro il tempo massimo di 4 ore, cosa che uno può fare in casa o al ristorante solamente se ha una macchina apposita, che è appunto l'abbattitore di temperatura. E la differenza è che la velocità con cui questo processo avviene fa sì che l'acqua cristallizzi in cristalli molto piccoli, faccia conto, è come vedere la neve invece di vedere un blocco di ghiaccio, che non espandono all'interno della cellula, quindi la cellula rimane integra e quando poi il prodotto viene scongelato, anzitutto il processo è molto più veloce, quindi viene scongelato molto più velocemente, ma poi soprattutto la qualità è ineccepibile, è al 99% come se fosse fresco. Bene, grazie a Katia D'Arosso. Abbiamo in Puglia un amico ristoratore veramente molto bravo su questi temi, che è Mario Ottaviano del ristorante Al Trabucco da Mimipe a Peschici. Buongiorno Ottaviano. Buongiorno Davide, buongiorno. Mario, ti chiedo, lo chiedono tutti i radioascoltatori, se la affumicatura sottosale e servono quindi a salvarci dall'anisakis? Beh, assolutamente no, perché naturalmente come abbiamo detto prima, il problema è che noi dobbiamo comunque eliminare questo parassita dal pesce, lo eliminiamo con l'eviscerazione, però naturalmente non siamo sicuri da quanto tempo quelle viscere sono all'interno del pesce, quindi potrebbe avere già infettato, come diceva prima il dottore, cioè migrano naturalmente una volta che sono larve dell'intestino, poi migrano verso i muscoli, quindi verso le pareti addominali. Quindi comunque diciamo che lo eliminiamo perché eliminiamo l'acqua facendo tipo la salatura, però comunque alla fine il contatto con l'alimento c'è stato, quindi magari non ci darà probabilmente disturbi gastrointestinali, però se c'è qualcuno che ha problemi di allergia, quindi di shock anafilattico, non è detto che potrebbe anche attaccarlo in quel modo, cioè potrebbe avere comunque uno shock anafilattico, quindi comunque sì, comunque consiglia, tu lo sai quando sei stato da me ne abbiamo parlato, si consiglia sempre l'abbattimento di temperatura del pesce, cioè dobbiamo diffondere, ed è un nostro compito, quello dei cuochi e quello dei ristoratori, diffondere ai nostri clienti questa buona abitudine, cioè dirgli: guardate, quando siete in giro per i ristoranti voi dovete chiedere se c'è l'abbattitore di temperatura, se questa gente fa una faccia un po' strana voi non vi mangiate il pesce crudo, gli alici come abbiamo parlato prima, tutto quanto di quello che abbiamo parlato fino adesso perché ho ascoltato tutta la trasmissione, cioè noi dobbiamo essere, voglio dire, diffondere verso i nostri clienti che quel prodotto surgelato nell'abbattimento, durante l'abbattimento, non è un pesce congelato, è perfettamente identico e anzi migliore di quando l'abbiamo preso fresco dal bancone. Bene, grazie Mario, anche perché diciamo che c'è anche una disposizione della FIPE che dice che bisognerebbe aggiungere sotto il menu appunto che quel pesce è stato abbattuto. Io credo che il consumatore dovrebbe reagire in maniera molto, molto positiva e non negativa come succede. Ho 30 secondi, però devo dare la voce a Gianluca da Milano, mi sembra che sia responsabile del mercato ittico di Milano, quindi ho 30 secondi Gianluca, prego. Salve, buondì, saluto lei e i suoi telespettatori. Andiamo al dunque. Volevo solo un attimo tranquillizzare, nonostante l'argomento sia assolutamente positivo, venga trattato, sul controllo che viene effettuato quotidianamente presso il mercato ogni notte. Esiste il presidio dell'ASD interno che garantisce un controllo capillare proprio su tutto il pesce, con particolare riguardo proprio al tema dell'anisakis. Questo ci consente, quantomeno nel pesce che transita dal mercato ittico all'ingrosso di Milano, di avere una verifica, ecco, sul campo. Beh, speriamo che questo avvenga in tutti i mercati ittici d'Italia, penso sia così. Purtroppo dovevamo avere proprio un responsabile del mercato ittico di Savona, ma non so se per il brutto tempo o d'altro non ci risponde al telefono, che volevamo appunto che ci spiegasse proprio questo, cioè cosa fa in uscita ai mercati i controlli se vengono fatti. Simona dalla provincia di Roma e Rita dalla provincia di Varese, io vi ho fatto rispondere perché ho visto quali erano i vostri interrogativi sull'affumicato e sul sottosale. Avete sentito Mario Ottaviano, che è un grande esperto, vi ha risposto in proposito, e così ai tantissimi sms che sono arrivati. Bene, abbiamo chiuso questa trasmissione e, come ho detto, nessun allarmismo, ma secondo me precauzione sul pesce crudo. Io vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11.15 e tutti i giorni con la pillola del gastronauta alle 11.05 e alle 23.05. Buona settimana a tutti da Davide Paolini. Ascoltate, Procchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Vi ha presentato il gastronauta.